Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Parigi con Paolo Roversi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Se Parigi val bene una messa, a detta di Enrico IV, figuriamoci se non val bene una puntata di Compagni di viaggio. Del resto è proprio lungo la Senna che si sono riempiti i taccuini di molti grandi scrittori, Hemingway in testa. Perché non può riempirsi anche quello di un giovane scrittore italiano proprio sulle orme dello scrittore americano? Il giovane in questione si chiama Paolo Roversi e oggi mi faccio portare in giro per la capitale francese. Parigi è la quinta città più popolata d'Europa, con circa 2 milioni e 200 mila abitanti. Tuttavia, l'estensione urbana della capitale francese è ben più ampia del suo territorio comunale. L'area metropolitana, infatti, detta anche Grande Parigi, conta una popolazione di circa 12 milioni di persone ed è la terza più popolosa d'Europa dopo quelle di Mosca e di Londra. Parigi l'ho conosciuta con un libro di Hemingway, Siesta, questo libro in cui lui faceva la vita da bohemien, quindi... La prima impressione, il primo acchito è stato questo: uno scrittore che viveva a Parigi, quindi già lì la città non poteva che piacermi. Naturalmente, essendo stato scritto quello all'inizio del Novecento, era abbastanza cambiata Parigi poi quando ci sono stato io la prima volta. Non c'era dubbio che fosse stato proprio Hemingway a illuminare Roversi sulla ricerca della propria strada, anzi, visto che siamo a Parigi, del proprio boulevard. Prima volta naturalmente in vacanza, turista, con i miei. Viaggio in camper con sosta e abbiamo anche campeggiato al Bois de Boulogne, no? Che è conosciuto per altre cose, però c'è anche questo campeggio dove c'era il pullman, neanche la RER, neanche quindi la metro. Si arrivava in centro, si arrivava mi pare alle Champs-Élysées e da lì poi ti muovevi. Quindi quello è stato il mio incontro con Parigi, un incontro particolare perché sempre col camper avevamo portato anche le biciclette, quindi vedere la città in bicicletta non è da tutti. No, poi penso, un italiano in Francia in bicicletta, mi viene in mente Bartali, e diciamolo, ai francesi non è passata proprio inosservata la sua visita in bici, niente a che vedere con quella di Paolo, è chiaro. Quasi fosse sintonizzato sui miei pensieri, mi racconta che la sua seconda volta nella Ville Lumière è coincisa con l'arrivo di un Tour de France. Che immagine da cartolina! האורות הולכים אפור ועננים אני שמחה וטוב לי אבל כל כך קר לי בפריז מסתובבת סחור וסחור בסמטאות קסומות מחושפות בולות אותי אני בפריז בניינים יפים אתם זקנים ועצילים כל כך אבל האם תחממו אותי בפריז Paolo Roversi, giovane scrittore stregato da Parigi, mi sta conducendo alla scoperta della sua versione della città francese, quella città che ha voluto dire esperienze e ispirazione per un romanzo. Un romanzo dal titolo davvero intrigante. Vabbè, Parigi poi è stato amore a prima vista, è stato insomma qualcosa che ha sempre a che fare col letterario, perché io tutte le volte che mi sono trovato a Parigi ho scritto e poi con gli anni sono anche arrivato a dedicargli un romanzo che è appunto Niente bacio alla francese, che è ambientato nei luoghi che ho conosciuto meglio, dove ho vissuto, perché ho avuto, Hemingway diceva, chi ha la fortuna di vivere a Parigi da giovane è felice, se la porta nel cuore per tutta la vita. Io ho avuto questa fortuna perché sono capitato lì per lavoro e ci ho vissuto 2 anni, due anni in cui ho alloggiato, diciamo così, in un luogo che aveva anche a che fare con l'Italia, perché si chiamava Boulevard des Italiens ed era però in un quartiere bellissimo che è il quartiere dell'Opera, quindi tu scendi dalla tua stanza, trovi subito questi boulevard e sei nella cartolina che hai sempre visto, nella cartolina che hai sempre visto, e mi ricordo infatti anche quello che facevo alla sera dopo il lavoro. Andavo in questi bistrò che sono aperti tutta la notte, sono aperti anche quando c'è freddo, no? Niente baci alla francese, bel titolo. E pensare che un tempo si diceva baci alla fiorentina e ce lo siamo dimenticati. Cos'è che ci ha fatto perdere il primato anche qui con i cugini d'Oltralpe? Ma certo è che Paolo l'Italia non se la dimentica tanto facilmente. E intanto si annota sul taccuino, da bravo scrittore che vuole farsi lasciare il segno dalla città, la vita che passa dai bistrò. Perché dall'estate all'inverno io ci sono stato, e quindi anche d'inverno ero fuori sotto questi camini e su questi tavoli rotondi scrivevo, buttavo giù i miei appunti con quello che dicono i francesi, il calpen, il taccuino. E quindi l'ho vissuta dal basso, la città, dalla strada, camminando, no? Perché quando cammini vedi molte più cose. E in quella zona lì dell'Opéra è la zona dei cosiddetti passage. E la frase che dicono dappertutto, dans les passages il y a Paris, cioè i passaggi sono questi, chiamiamoli cunicoli, chiamiamoli strettoie ricavate fra due palazzi, e sono delle specie di piccole gallerie dove ci sono tutti dei negozi e tu ti muovi, trovi un bistrò, trovi un negozio di antiquariato, trovi, c'era questo grandissimo negozio di cartoline usate in uno dei passaggi lì che sbuca su Boulevard des Italiens, e c'era questo romano che aveva questo bistrò dove in pausa pranzo andavamo sempre a mangiare, e lui ci faceva o le piadine oppure la importava tutti i prodotti da Roma, ci dava la Peroni per dire come birra, e aveva sempre o il prosciutto crudo, quello di Parma, insomma facevamo proprio gli italiani, e faceva il caffè come si deve, perché una delle cose che in Francia non sono mai riuscito a farmi andare bene è il caffè, perché hanno, non è come il nostro, insomma, quindi l'unico compromesso è il caffè o lì che hanno. Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir, le percepteur la conservait dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir, le pharmacien la dorlotait dans un bocal, l'ex-caporal en parlait à l'ex-général, car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant quatre ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, avec l'espoir et la fleurie, fleur de Paris. Fleur de chez nous, elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant quatre ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. viaggio. A Parigi con Paolo Roversi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo a Parigi con Paolo Roversi. Il suo primo incontro con la città è stato letterario, tra le pagine di Fiesta di Hemingway. E anche lui se la porta nel cuore, la capitale francese, perché, come dice lo scrittore americano, se hai avuto la fortuna di vivere a Parigi da giovane, Parigi sarà sempre con te. Dopo aver già vissuto un luogo comune con l'immagine di Paolo che arriva in una città blindata dalle biciclette del Tour de France, adesso sono pronta per affrontare la nouvelle cuisine e la baguette. Parliamo del cibo, vado a ruota libera perché una delle altre cose che caratteristiche che mi ha sempre attratto della Francia è la loro cura per i piatti, no? Questa nouvelle cuisine, questa cucina molto colorata, questo modo di presentarti i piatti, che magari la sostanza non è la nostra, ma insomma è molto cinematografico, anche se io potrei vivere soltanto di baguette mangiata, proprio comprata e mangiata calda, e naturalmente portate in giro solo sotto l'ascella, solo con un tovagliolino intorno, neanche una borsina non te la danno. Prevedibile, ma di certo un'istantanea di Parigi a cui non potevamo rinunciare. Anche se tra il cibo che ha segnato il mio accompagnatore e che è entrato addirittura nel suo libro, non c'è quello di un classico chef francese. E poi a Parigi, vabbè, ci sono tutte le cucine del mondo. Io quando vivevo a Parigi ho conosciuto questo ristorante, tre o quattro posti, questo ristorante portoghese, così, che è nella zona Les Halles, praticamente dietro il Forum des Halles, insomma, per intenderci, è solo il nome della via, è un po' troppo, comunque c'è Rue de Rivoli, il Forum des Halles, ed è in quella zona lì, per darvi un'indicazione. E questo portoghese con tutte le maioliche me lo sono portato dentro perché è entrato anche nel mio libro, era talmente la cucina particolare secondo me che è diventato un luogo in cui avvengono delle scene del mio romanzo. Più Paolo fa riferimento al suo romanzo Niente baci alla francese, più nella mia testa si affollano scene di una Parigi già vista attraverso i baci rubati dagli scatti fotografici di Robert Doisneau. E se penso a Doisneau, non posso non pensare all'amico Jacques Prévert, che scrivendo di baci e amore a Parigi ha incantato tutti. Mille anni e poi mille non possono bastare per dire la microeternità di quando mi hai baciato, di quando ti ho baciata, un mattino nella luce dell'inverno al Parc Montsouris a Parigi. A Parigi, sulla terra che è un astro. On se rappelle les chansons, un soir d'hiver un vrai visage, la scène en marchant de marron, une chambre au cinquième étage, les cafés crème du matin, Montparnasse le café du Dôme, les faubourgs de quartier latin, les Tuileries et la place Vendôme. Paris, c'était la gaieté Paris, c'était la douceur aussi, c'était notre tendresse. Paris, y a des gamins, des artisans, y a des camelots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers et du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi mon vieux, on se retrouvera tous les deux, mon grand Paris. Abbiamo fatto il giro di tutti i luoghi comuni di Parigi, dalla baguette al bacio rubato per strada, come nelle fotografie diventate simbolo della città degli amanti. Ma Paolo Roversi, che mi sta facendo fare questo tour, mi riporta sulla terra parlandomi di nuovo di cibo. Altri posti magnifici, un altro in cui andare a mangiare, a Saint-Germain-des-Prés, sempre zona Saint-Germain-des-Prés, vicino a Saint-Sulpice, no? Dove c'è la camminata. Adesso gli hanno fatto la camminata, il tour di Dan Brown. Tu puoi andare a visitare Parigi attraverso i luoghi del Codice da Vinci. Bellissimo. Infatti, e si chiama la Maison de l'Entrecôte, quindi la casa della bistecca, in cui tu entri, ti siedi, ci sono tutte queste cameriere vestite in divisa, no? Sembrano quel quadro di Renoir, dove il caffè l'hanno, insomma, quelli, classica francese in divisa cameriera con la crestina, eccetera. E tu non puoi scegliere, l'unica cosa, ti siedi e l'unica cosa che puoi decidere è il tipo di cottura, al sangue ben cotto o a puntino. E dopodiché loro ti portano l'entrecôte tutte le volte che vuoi, no, in realtà due volte, dopodiché devi pagare il supplemento se vuoi, perché non puoi andare lì a strafogarti, e le patatine fritte. Ed è un posto che è sempre pieno, ma è un posto dove si mangia, secondo me, la migliore entrecôte di Parigi. E abbiamo mangiato anche la carne migliore, anzi l'entrecôte migliore, e come altro la vogliamo chiamare. Un'altra cosa che non è solamente parigina, ma c'è in tutta la Francia, però a Parigi lo trovi in un boulevard sì, in un boulevard no, è questa catena che si chiama Chez Léon, dove fanno soltanto le mulle, le cozze, fatte in tutti i modi possibili immaginabili, le moules poulettes, che sono quelle con la crème fraîche, a quelle col vino bianco, a quelle solo con alla marinière, quindi con l'aglio, il prezzemolo, eccetera. E quindi nel mio soggiorno parigino ricordo tantissimi momenti di queste mangiate di cozze con patatine fritte a volontà. Patatine fritte a volontà, giustamente, anche perché pare siano state inventate proprio a Parigi durante la Rivoluzione francese, in seguito a una campagna voluta da Antoine Parmentier per la promozione delle patate in Francia. Cosa ci manca adesso per completare la lista dei luoghi comuni? Poi mi ricordo le partite di calcio, le partite di calcio vissute nei bar, nei bar di Parigi. Sono stato giù due volte, no, una volta che c'erano i mondiali, una volta che c'erano gli europei. Ed gli italiani con i francesi, insomma, ce la siamo goduta, ci siamo divertiti in questi locali dove si beveva la Leffe. Loro c'era sempre la Leffe, o se no la Blanche, che è la mia preferita. In tutti i posti di Parigi bevo la Blanche. Tra l'altro lì hanno, per capire come ordinarle, perché se tu ordini una birra normalmente ti portano la piccola, e quella che si chiama la Demi, no? Quindi se tu ordini in bière ti portano una piccola, se no devi ordinare in grande per avere la birra media. Quindi già quello è l'avvicinamento alla lingua e il fatto di capire cosa devi dire per avere quello che vuoi. Paris n'a plus l'air de Paris, Paris n'a que l'air d'aujourd'hui, Paris n'a plus l'air d'une dame. À coup de ride ravalée, elle veut oublier son passé, comme le font beaucoup de femmes. C'est une ancêtre aux cheveux blancs qui voudrait rester dans le vent et qui se met des mini-jupes. Quand elle montrait ses jambes avant, au moins c'était un bon moment. Ce jour, plus personne n'est dupe. Paris n'a plus l'air de Paris, Paris n'a que l'air d'aujourd'hui, Paris n'a plus l'air d'une dame. Moi, je voudrais qu'elle ait l'air d'une grande dame d'hier, et non d'une femme sans âge qui me parle un même langage. Moi, je voudrais qu'elle ait l'air d'une bonne vieille grand-mère, avec des rides au coin des yeux et de l'argent dans ses cheveux. Paris n'a plus l'air de Paris, Paris n'a que l'air d'aujourd'hui, Paris n'a plus l'air d'une dame. À force de se rajeunir, elle finit par mal vieillir, comme le font certaines femmes. Elle a démoli ses remparts, s'est ouverte de toutes parts, il n'y a plus rien qui l'arrête. Elle a vendu tous ses secrets et même son intimité. Ce n'est plus qu'une ville offerte. Paris n'a plus l'air de Paris, Paris n'a que l'air d'aujourd'hui, Paris n'a plus l'air d'une dame. Moi, je voudrais qu'elle ait l'air d'une raconteuse d'hier qui serrerait un peu le poing, jalouse des lignes de sa main. Moi, je voudrais qu'elle ait l'air d'une vieille ville d'hier, avec des rives au coin des rues, avec des semblants d'avenue. Paris n'a plus l'air de Paris, Paris n'a que l'air d'aujourd'hui, Paris n'a plus l'air d'une dame. Paris sera toujours Paris, mais telle qu'elle se montre aujourd'hui, ce n'est plus qu'une vague à l'âme. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Parigi con Paolo Roversi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Dove si nutrono il cuore e l'anima di un giovane scrittore se non a Parigi? Sono con Paolo Roversi, che alla città ci è arrivato prima letterariamente attraverso Fiesta di Hemingway e poi, una volta approdatoci anche fisicamente tra i suoi bistrot e i suoi passage, ci ha dedicato un romanzo, Niente baci alla francese. E voilà, eccoci arrivati anche a Montmartre. Uno dei posti in cui andavo sempre quando arrivavo, io prendevo l'aereo delle volte a mezzogiorno qui da Linate, arrivavo a Orly, perché trovo molto più comodo, è un po' come la diatriba, il Charles de Gaulle e Orly è un po' come la diatriba Linate Malpensa che abbiamo a Milano, no? Io di mio andrei sempre ad Orly come andrei sempre a Linate qua, perché l'altro è un aeroporto di un altro, di una città lontana, non è un aeroporto, è la stessa cosa del Charles de Gaulle, perché quando arrivi a Charles de Gaulle sei un po' perso, invece Orly ti sembra proprio di arrivare a Linate, prendi il taxi, 20 minuti sei in centro. Quindi io arrivavo al pomeriggio, mettevo giù le valigie in hotel e poi andavo a piedi su a Montmartre, e facendotela proprio a piedi, perché quelli che si prendono la teleferica lì, insomma, è talmente bello godersela. E andavo anche lì a bermi la mia birra sul tavoletto rotondo con il taccuino per scrivere en place du tertre, che è quella dei pittori, quella degli ritratto dagli impressionisti. E lì in Place du Tertre c'è un ristorante proprio dietro, piccolissimo, che avrà 20 coperti, il nome non me lo ricorderò mai, comunque ha un balconcino di fiori fuori, c'è un balcone soprattutto pieno di fiori che ricadono sull'ingresso. E lì mi ricordo mangiavo la soupe d'oignon, la zuppa di cipolle, che tutti quando lo raccontavo, dico ma la zuppa di cipolle che cosa terribile, invece la zuppa di cipolle mangiata a Parigi quando fa un po' freschino fuori, proprio la morte sua, come direbbe il romano del bistrot dei passage. Ancora cibo per il corpo, ma Parigi è anche cibo per la mente. Non possiamo non fare un salto a visitare musei e cattedrali. Vabbè, poi gli altri posti, quando vai al Louvre, poi tutti gli altri musei, rimani un po' così dopo che sei stato al Louvre, ma non soltanto perché vedi la Gioconda, ma i padiglioni degli Assiri, i padiglioni dei Babilonesi, i padiglioni delle popolazioni mesopotamiche, eccetera, sono veramente... io ho sempre questi ricordi. E vabbè, poi il Museo d'Orsay, basta, visto quello, ho visto il Museo Van Gogh ad Amsterdam, è difficile poi vedere una mostra degli impressionisti senza dire vabbè, però ho già questo, avrei già visto. E poi Notre Dame, d'accordo, ma quello che è più bello probabilmente è lì di fronte, che è la Sainte-Chapelle, che è stranamente sconsacrata. Quindi tu entri in questa chiesa che è tutta vetrata, poi è un'architettura che la vedi da tutta Parigi, se vai in un punto alto la vedi un po' ovunque, ed è molto particolare. La cosa che colpisce sono le vetrate, ma la cosa che ha colpito di più noi italiani, sai, cattolici, è tu vai dentro e non è sconsacrata, quindi le Sainte-Chapelle in realtà non c'entra più niente con la chiesa, quindi anche quello fa un po' specie. Per cercare le stelle chiuse nella tua mano, quante volte nel buio io l'ho stretta ma piano, trovai forse mille, forse più, forse più, forse più parole. Cantai così tanto che la notte gridò che così non vale, non è più amore. Ed il sole di maggio ricomincia a bruciare, non aspetto i tuoi passi, non le guardo le scale. E quando partivi senza più, senza più, senza più tornare, adesso ritorni, ora che ora che ora che mi parli, sai che mi perdi. Parigi, Parigi, Parigi, Parigi è lontana, oramai ci so arrivare, io la vedo e tra un momento la potrò toccare. Stare appresso a un giovane scrittore italiano alla scoperta della sua Parigi può essere faticoso. Io mi sono ormai abituata al suo girovagare da un locale a un altro, dal Louvre a Notre Dame, passando per Montmartre. E adesso arriva il bello. E poi c'è, già che siamo in zona, siamo sull'Île de la Cité, e c'è questo posto, secondo la mia ragazza orribile e orrendo, secondo i miei colleghi e i miei amici che sono venuti, fantastico, che si chiama Nosancêtres-le-Gaulois. I nostri antenati galli, no? Quindi tu sei sull'isola, l'Île de la Cité, l'Île de Saint-Louis, quindi sei in mezzo alla Seine, il posto più figo che c'è, che ci può essere, no? Un luogo romantico. E io, con la mia ragazza, l'ho accompagnata, l'ho portata in questo posto, Nosancêtres-le-Gaulois, quindi sei in questa via romantica, dice, faccio vedere la vetrina in legno, entriamo qui, e tu entri in un altro mondo. Io la penso un po' come la ragazza di Roversi. Pur non essendo mai stata in questo posto, mi chiedo davvero cosa ci sia di così interessante. Eppure ogni luogo ha il suo perché. Penso al film Parigi è sempre Parigi. Ma mamma, siamo a Parigi. Ma che bei divertimenti. Quando il racconto di cosa succede in questo luogo in mezzo ai galli prosegue, vorrei tanto uscirmene con la stessa battuta. Ma che bei divertimenti! Allora, i camerieri sono vestiti come Asterix e Obelix, no? Con le trecce, i pantaloni a righe, queste cose. E poi lì si mangia a volonté, no? La classica cosa che piace a noi italiani, che ti puoi strafogare a prezzo fisso. E hai un tavolo immenso di charcuterie, di salumi, che ti tagli tu al coltello, quindi hai tre tipi di salame, quattro tipi di prosciutto, insomma puoi fare quello che vuoi. Poi ti portano un cesto di frutta, rapanelli, verdure, sedano, in cui c'è dentro tutto, e puoi farti il pinzimonio e poi scegli la carne che vuoi. Ah, tutto intorno ci sono una serie di botti e tu ti viene affidato una caraffa, quando entri puoi fare tutti i giri che vuoi nelle botti. Insomma è un posto chiaramente molto turistico, però non tutti lo conoscono, lo devi sapere, diciamo per intenditori. Quindi Nosancêtres-le-Gaulois è vivamente consigliato se volete mangiare. Non è il luogo più romantico di Parigi, se dovete chiedere la mano alla vostra donna forse non è il posto più consigliato, però lì vabbè ci sono i bateaux mouches, no? Balayé par septembre, notre amour d'un été tristement se démembre et se meurt au passé. J'avais beau m'y attendre, mon cœur vide de tout ressemble à s'y méprendre. À Paris, notre amour redoutable pire vivait au jour le jour. Chaque rue, chaque pierre semblait n'être qu'à nous. Nous étions seuls sur terre à Paris. Dire je t'aime aussi loin que tu sois. Une part de moi-même reste accrochée à toi et l'autre solitaire recherche de partout l'aveuglante lumière de Paris au mois d'août. Dieu, fasse que mon rêve de retrouver un peu du mois d'août sur tes lèvres de Paris. Notre amour un peu fou pour que tout recommence à Paris au mois Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Parigi con Paolo Roversi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Ho ancora negli occhi la serata passata nel locale con camerieri vestiti come Obelix e Asterix. Quest'ultima cartolina di Parigi spedita da Paolo Roversi, il mio compagno di viaggio di oggi, non si combina molto con quelle precedenti, dove ho visualizzato ragazzi baciarsi per strada come nelle foto di Doisneau, o giovani scrittori come Paolo riempire il proprio taccuino di suggestioni seduti ai tavoli dei bistrò all'aperto. Ma non abbiamo ancora finito. Vediamo un po' cosa mi ha riservato per il finale. Ma Parigi è un posto anche dove il moderno e l'antico convivono in piena armonia, perché vabbè, quando hanno fatto il Beaubourg, no, il museo Pompidou, tutti dicevano che sarebbe stato un pugno in occhio, in realtà ci sta benissimo lì. Cioè, quando hanno fatto la Défense, no, questo quartiere nuovo, moderno, in cui hanno fatto il terzo arco di trionfo, perché tu hai, se sei al Louvre, all'interno della corte, dove hanno fatto anche lì la piramide, che quando l'hanno fatta, io la prima volta che ci sono andato non c'era, poi quando sono ritornato e l'ho vista, bellissima, illuminata di sera. E loro che cosa hanno pensato? Cioè, davanti, se tu ti metti in linea con, cioè se tu hai di fronte l'Arco di Trionfo, vedi la piramide, poi vedi l'Arc du Carrousel, che è sempre lì all'interno del Louvre, diciamo, che è quello di Napoleone, e all'interno della sua sagoma, cioè la sua sagoma è interna al secondo arco di trionfo, quello delle Champs-Élysées, che a sua volta è interno al terzo arco di trionfo, quello della Défense, che hanno fatto in fondo. È una cosa che possono fare solo i francesi, cioè noi italiani una cosa così non ce la sogniamo. Adesso voglio vedere l'Expo qui a Milano cosa facciamo. L'Expo, quando l'hanno fatto a Parigi, hanno fatto la Tour Eiffel, eh? Noi voglio vedere cosa riusciremo a fare. Beh, forse un grattacielo storto, ma che comunque l'avremmo fatto anche senza l'Expo, quindi non ti so dire se è un bene o un male. A Parigi ha fatto un gran bene l'Expo. Un arco che contiene un arco che contiene a sua volta un altro arco. Bellissima immagine di una Parigi vista in prospettiva, con l'orizzonte che si riempie di opere dell'ingegno umano, mentre le orecchie si riempiono in ogni dove di musica. La musica è sempre molto presente in città, ma in Francia in generale. Io, avendo vissuto anche a Nizza, ti posso dire che molti locali fanno musica dal vivo. E poi ho anche apprezzato la musica francese anche perché si ascolta molto radio lì, e lì c'è una legge che obbliga a passare il 50% di musica francese, cioè 50%, massimo 50% straniera. E quindi ho amato, ho conosciuto i Louis Attaque, Jacques Brel, Renaud, dei cantanti che magari in Italia dicono poco ma che là sono molto conosciuti, i Noir Désir, e che ascolto ancora, devo dire, che poi sono entrate nella colonna sonora del romanzo come parte integrante, perché non c'è niente di meglio della musica di un luogo per descrivere quel luogo, come anche dei film. C'è questo film che si chiama Quai des Orfèvres, che è ambientato naturalmente in Quai des Orfèvres, che è l'equivalente della questura, che è anche lì sull'île de la Cité, cioè proprio in centro, non è che l'hanno messo in un brutto posto, con Depardieu, che è un altro che proprio rappresenta la Francia. Io la Francia e Parigi la identifico in Depardieu e in Jean Reno. Paolo mi ha appena fatto riflettere su quanto la francesità, se si può dire così, sia stampata tra le note di alcune canzoni e sulla faccia di molti attori. Gérard Depardieu, primo fra tutti, anche se ultimamente ci tiene a dire che tiene un cuore italiano, sarà sempre l'immagine della Francia anche per me, come la Tour Eiffel, la Baguette, la presa della Bastiglia, i Moulin Rouge e Voltaire. Le soleil qui se lève et caresse les toits et c'est Paris le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt et c'est Paris toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit, et ce Paris bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui, ce Paris l'amour. Le premier rendez-vous à l'île Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Et le premier baiser volé aux Tuileries, et c'est Paris la chance. Et le premier baiser reçu sous un portail, et c'est Paris romance. Et deux têtes qui tournent en regardant Versailles, et c'est Paris la France. Parigi per Paolo è Jacques Brel, Jean Reno, Gérard Depardieu. Parigi è tutti i francesi, che per certi versi sono simili agli italiani, ma con una piccola, forse non troppo, differenza. C'era qualcuno che diceva che i francesi sono come gli italiani, solo che sono sempre incazzati. Questa è la differenza sostanziale tra noi e loro. Differenza sostanziale, direi. Ma dopo questa divagazione antropologica di un certo spessore, riprendiamo in mano il nostro viaggio in questa officina creativa per scrittori di ogni epoca che è Parigi e scortiamo ancora per un po' Paolo Roversi. Un altro posto che merita tantissimo è il Jardin du Luxembourg. Sono questi giardini in pieno centro dove vai, secondo me vai solo, sono vicini al Senato, quindi magari ci vanno anche i senatori della Repubblica, però sono sempre pieno e c'è la gente che gioca a scacchi, non ci sono le scacchiere en plein air, e in Italia avrebbero ciulato le scacchiere i platani. Lì invece c'è ancora questo gusto. E lì vicino c'è un altro posto che mi ricorda Hemingway, che è la Shakespeare & Co, che è questa libreria che si affaccia praticamente sulla Senna di fronte a Notre Dame, ma già dalla parte del Quartiere Latino, dove si dice abbia soggiornato anche Hemingway, abbia dormito. C'è questo letto di ferro dove loro ospitavano, facevano i mecenati per questi scrittori squattrinati che passavano per Parigi. Quindi tutti quelli della Big Generation hanno dormito su quel letto, probabilmente sulle stesse lenzuola, quindi vale anche la pena andare a vedere. Ritorniamo così a ciò da cui tutto ha avuto origine, la letteratura. Perché Parigi è considerata da sempre un serbatoio letterario. Tutti arrivano a Parigi in cerca di stimoli, per respirare l'aria di incredibile fervore che da sempre la caratterizza. Così ha fatto Paolo Roversi, che ci ha dato la sua visione della città dopo esserci arrivato tra le pagine di Hemingway. E proprio sulle parole di Fiesta possiamo chiudere la nostra visita con un au revoir. Per Parigi non ci sarà mai fine. E i ricordi di chi ci ha vissuto differiscono tutti gli uni dagli altri. Si finiva sempre per tornarci a Parigi, chiunque fossimo,